Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, sono le 11.06, tempo di iniziare a parlare di salute, della nostra salute. Prima di andare a sentire che cosa vi abbiamo preparato per oggi, un saluto in regia a Fabio Cantadori che ci segue la parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Sono solo due, ma ne hanno sempre una. Parliamo di ginocchia. Primo bagnetto, regole e consigli perché tutto fili liscio. Il cibo spazzatura fa male anche ai topi. Le vostre ginocchia si lamentano, cedono, scricchiolano, sono dolenti. Fermatevi subito perché oggi cerchiamo di capire cosa fare per tornare in gamba. Il nostro numero verde è già a vostra disposizione. 800 24 0024. I messaggi al 349 238 6666. In studio con me, ed è una garanzia, il professor Roberto Danchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, eccoci di nuovo. Buongiorno a tutti. Professore, anche per le ginocchia l'età fa la differenza, perché lo stesso dolore in un ragazzo o in un uomo maturo, un uomo o una donna matura, può essere letto in modo differente. Nel primo caso, ad esempio, si pensa a un dolore di crescita o all'esito di un trauma, per chi invece ha superato gli ANTA viene subito da pensare all'artrosi. Però forse la faccio troppo semplice. Beh no, diciamo che la sintomatologia dolorosa è quasi sempre la stessa, viene riferita quasi nello stesso modo, però giustamente, come si diceva, il tipo di malattia o di patologia può essere completamente diverso. È vero, ci possono essere i cosiddetti dolori di crescita, però anche in una fase giovanile, adolescenziale, ci sono delle malattie specifiche, tipiche dell'adolescenza. Mi veniva in mente che c'è una patologia molto particolare che è praticamente la stessa, con caratteristiche molto simili, nel giovanissimo, e si chiama osteocondrite dissecante, e nell'anziano, che si chiama osteonecrosi, ed è una sofferenza della cartilagine e dell'osso sottostante localizzata, tipica. Lo dicevo per dire che proprio è la stessa patologia che ha un intervallo di tempo nella quale praticamente non si presenta, quindi nel giovane e nell'anziano, quindi con la stessa sintomatologia. Quindi è corretto dire che i dolori sono ragionevolmente gli stessi, ma bisogna analizzare un po' quali possono essere le cause. Certo, e noi lo faremo, parleremo di dolore, di limitazione nel movimento, parleremo di ginocchia che cedono, scricchiolano. Insomma, oggi vogliamo mettervi a disposizione i nostri esperti per venire a capo del vostro problema. Parleremo di prevenzione e naturalmente di cura, che in alcuni casi può essere anche molto soft. 800 24 0024, questo è il numero verde, se avete un ginocchio che vi dà qualche problema, non esitate a chiamarci o a scriverci al 349 238 6666. Una mela al giorno. Scommetto che vi ricordate quando vostro figlio ha detto la prima parola, oppure quando ha mosso i suoi primi passi, ma vi ricordate anche come è stato il suo primo bagnetto? Sembra una cosa molto semplice e naturale, ma soprattutto per la prima volta il primo bagnetto mette sempre un po' in ansia le mamme o anche i papà. In linea con noi per darci tutte le dritte e fare così un bagnetto in tutta sicurezza, in linea il professor Giuseppe Ferrari, pediatra da Torino. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, grazie. Allora, professore, facciamo il primo bagnetto insieme. Iniziamo dall'ABC. Quando si può fare il primo bagnetto? Bisogna aspettare che il cordone ombelicale sia distaccato? Dunque, il primo bagnetto va fatto il più presto possibile. Il problema del cordone ombelicale, che preoccupa molto le mamme, non è che se faccio il bagnetto il cordone ombelicale crea qualche problema alla salute del mio bambino, semplicemente perché per cadere il cordone ombelicale si mummifica, cioè diventa secco. Se io gli faccio il bagnetto quando c'è ancora, ritarderà la caduta, perché ritorna umido, quindi certo, ritarderà la caduta. Quindi il bagnetto, diciamo, lo iniziamo dopo qualche giorno, due o tre giorni dopo che è caduto il moncone ombelicale. Dopodiché si può fare, anzi si deve fare tutti i giorni, perché deve diventare una piacevole abitudine nella vita del bambino, e per essere piacevole, per essere abitudine, deve essere quotidiana. Lei mi diceva la paura, infatti molte mamme, anzi quasi tutte le mamme, hanno paura di fare il primo bagnetto, perché qual è la paura soprattutto? È che questo bambino scivoli nell'acqua e anneghi. E questo è uno dei tanti aspetti della sottovalutazione che gli adulti hanno dei bambini. Se il bambino scivola nell'acqua, smette automaticamente di respirare, quindi non annega, anche perché era abituato per 9 mesi a nuotare nel liquido amniotico, che tutto sommato è acqua, nella pancia della mamma. Quindi, professore, il bambino la sa lunga comunque? Direi di sì. La sa sicuramente più lunga di quanto noi crediamo che lui sappia. Professore, parliamo dell'acqua, della temperatura dell'acqua, quella giusta. Di solito si sente con il gomito, ma è giusto? Secondo me è giusto, perché sostanzialmente il gomito ti dà la reale temperatura dell'acqua. L'acqua, la temperatura dovrebbe essere compresa fra i 37,5 e i 38, vendono anche questi termometri che galleggiano, eccetera. Il vecchio gomito secondo me funziona sempre. Va bene, senta professore, una volta controllata la temperatura dell'acqua, controlliamo anche le cose che dobbiamo tenere a portata di mano. Sicuramente l'asciugamanino. Molte mamme, io per prima ricordo, oltre ad avere la paura che il bambino anneghi nella vaschetta del bagnetto, hanno paura che il bambino, finito il bagnetto o durante il bagnetto, si prenda freddo. Sì. E io spero che oggi, con questi riscaldamenti che soprattutto ci sono in inverno nelle nostre case, non si abbia più questa paura. In linea di massima cerchiamo di far sì che la temperatura del bagno, cioè quindi del locale in cui facciamo il bagnetto del bambino, sia un po' superiore alla temperatura media esterna delle altre stanze, un grado o due superiore. Il bambino non prende freddo in questo caso. Dobbiamo mettere anche sapone liquido, qualcosa in aggiunta dell'acqua? Quali prodotti dobbiamo scegliere? Noi vorremmo, noi pediatri, che i bambini crescessero, come si suol dire, acqua e sapone. E quindi, questo è presto detto, acqua e un buon sapone delle migliori, diciamo così, marche, non sto ovviamente a citarle. Deve però, il sapone usato per i bambini deve avere un pH debolmente acido, quindi il famoso sapone neutro, eccetera, eccetera, preferirei che venisse usato per gli abiti dei bambini e non per i bambini. Non so se sono stato chiaro. Mi sembra di sì, professore. Senta, quanto bisogna far durare questo bagnetto? Dunque, guarda, il bagnetto è, soprattutto se viene fatto, per esempio, da padre, madre, eccetera, è un momento, come dire, di socializzazione fra genitori e bambino, quindi può durare anche parecchio, diciamo da 5 a 10 minuti, insomma, può essere, però deve essere un momento piacevole nell'arco della giornata del bambino, della papà e della mamma, quindi diciamo anche 10 minuti. Senta, professore, c'è un momento magico per fare il bagnetto, meglio alla sera o al mattino? Quando fa comodo alla famiglia, proprio per rispettare questo valore di socializzazione che rappresenta. Secondo me il momento migliore è quando arriva a casa il papà la sera. Quindi coinvolgiamo anche il papà, tutti a fare il bagnetto. Direi di sì. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie mille, arrivederla. Pronto soccorso. Se un dolore al ginocchio vi mette in ginocchio, se non riuscite a muoverlo bene, se cede o se avete magari avuto un trauma e qualcosa si è rotto, niente paura, oggi con noi il professor D'Anchise, e quindi metteremo tutto a posto. Professore, inizierei subito a parlare di prevenzione. Consigli per chi le ginocchia le ha sane, forti e funzionanti, come proteggerle e mantenerle in questo stato di benessere? Allora, indubbiamente la muscolatura è fondamentale per un buon funzionamento dell'articolazione. Mi veniva in mente prima che adesso oramai siamo anche in epoca di sci, per esempio, quindi quando dobbiamo pensare di fare un'attività fisica è importante che non la si faccia a freddo, che non la si faccia senza essersi allenati. Quindi, perché un ginocchio funzioni bene, deve essere mantenuto in movimento da una parte, dall'altra parte attenzione a non esagerare. L'attività fisica eccessiva può comportare una usura più rapida dell'articolazione, quindi per chi ha delle ginocchia che non hanno problemi può fare qualsiasi cosa, qualsiasi attività, ovviamente con ragionevole buonsenso. Ci scrive Sonia, 38 anni, ci mette anche l'età, giustamente. I salti e i pesi nel karate rovinano le ginocchia, come prevenire problemi, cosa non fare? È il discorso che facevo prima, cioè si può far tutto, bisogna farlo con buon senso. Per esempio il maratoneta, chi usa moltissimo le ginocchia, alla lunga ha dei problemi molto molto frequentemente, quindi bisogna sfatare il discorso che più attività si fa e meglio è. L'attività deve essere ragionevole e quindi uno che fa karate può fare tutto quello che vuole se non ci sono problemi particolari. È chiaro che se c'è una situazione di micropatologia, definiamola così, allora bisogna valutare caso per caso che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Enrico ci chiama da Milano. Enrico, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno dottor D'Anchini. Buongiorno. La mia domanda è questa: ho 34 anni e da alcuni giorni, proprio cade puntino la vostra rubrica, ho uno scricchiolio a, diciamo, entrambe le ginocchia, ma particolarmente quella sinistra. Quando io adesso sto guidando, sono con il camion, sento proprio quando spingo sulla frizione un leggero attrito all'interno, una specie di leggero scricchiolio. Premetto che non ho mai avuto problemi alle articolazioni, anche se le mie sono piuttosto rumorose, anche le spalle, se io le muovo, fanno dei rumori quando la gente la sente. Tutto sempre senza dolori? E infatti io una volta un cliente, perché io viaggio dei clienti, a volte parlo anche con dottori, gente professionisti, mi hanno detto che anche se c'è un rumore meccanico, l'importante è che non ci sia bravissimo un dolore. Faccia finta di non avere gli scricchioli. Enrico, non ci pensi. Non ci pensi. Ma invece, per quanto riguarda il ginocchio, ho un leggero dolorino, ma né pungente né niente, soprattutto quando uso uno dei furgoni che ho, che ha la frizione un po' più dura perché è un mezzo un po' più pesante. E non so se sia magari proprio un'azione meccanica. No, probabilmente lei ha una cartilagine della rotula che viene sollecitata, come nella situazione sua, nell'uso della frizione, non perfetta. Però, ripeto, se è il fastidio non ci pensi, l'unico suggerimento che posso darle, come si diceva prima, è di avere una muscolatura ben allenata, specialmente il quadricipite, perché questo fa sì che la rotula lavori meglio. Allora Enrico, quindi sereno e tranquillo, non badi agli scricchioli. Può guidare tranquillamente. Stia bene Enrico. Arrivano molti sms. Mio figlio di 10 anni ha le ginocchia valghe. Quale sport deve fare per non affaticare troppo l'articolazione? Può giocare a calcio? Professor D'Anchise, la morfologia del nostro ginocchio può in qualche modo condizionare nel tempo la funzione di questa articolazione? Insomma, ci sono ginocchia più a rischio di altre? Così rispondiamo a questa mamma preoccupata? Sì, certo, diciamo che ci dovrebbe essere un asse normale, che vuol dire un leggero valgismo di pochi gradi. Tutto quello che si discosta da questo leggero valgismo può nel tempo comportare una maggiore usura o nella parte interna o nella parte esterna del ginocchio, a secondo di come è spostato l'asse di questo ginocchio. Ovviamente se la deformità è modesta bisogna tenersela e sperare che non ci siano problemi. Il ragazzo può fare tutto quello che vuole, ahimè difficilmente sarà un gran calciatore, perché i veri sportivi, specialmente nel calcio, hanno le tibie vare, quindi l'inverso del ginocchio valgo, quindi un po' più come alla cavallerizzo, per sì, così dire, che anche se non contrario. È vero che i cavallerizzi abbiano la deformità, era per specificare il tipo di deformità, le ginocchia che vanno in dentro, quelle esatto, che vanno in fuori. Quindi le ginocchia che vanno in fuori, diciamo che difficilmente sarà un grande sportivo, però può fare quello che vuole. Ma certo. Maurizio ci chiama da Chieti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Buongiorno. Io ho 43 anni e gioco a tennis regolarmente 2 o 3 volte alla settimana. Maurizio vince, è uno bravo o un po' una schiappa? È una via di mezzo, a volte vinco, a volte perdo, molto spesso. Ecco, diciamo che io al ginocchio destro avvertivo da quanto tempo dolore interno per sforzi, poi quando stavo a riposo mi passava, poi continuavo ad avvertire dei dolori, però sempre insopportabile. Due settimane fa invece il sinistro mi ha ceduto, mentre giocavo ho sentito un forte dolore. La parte superiore interna è il legamento, penso che sia, che io posso toccare col dito sulla parte destra del ginocchio sinistro, in alto a destra. E avverto ancora dolori solo quando lo carico. Volevo sapere i tempi di recupero senza una diagnosi precisa, non sono andato dal dottore eccetera, mi sono solo fermato. Solitamente che tipo di problema potrebbe essere? Allora, se quando non cammino non ho nessun problema, solo quando lo carico, diciamo. Sì, è difficile dare dei tempi di recupero se non si sa che cosa è al suo ginocchio. Diciamo che se è stato un episodio banale, casuale, diciamo che nel giro di una settimana, 10 giorni, 2 settimane dovrebbe tornare a posto. L'elemento importante però è che se lei ha una sintomatologia così acuta, così evidente, sarebbe logico fare qualche accertamento, farsi visitare da un ortopedico. Gli accertamenti che vanno fatti sono un esame radiografico, che oggi viene trascurato perché si parte subito con risonanza magnetica. Invece la radiografia dà una serie di informazioni che la risonanza magnetica non dà, e la risonanza magnetica che è quella che ci dà il maggior numero di informazioni in relazione al problema del ginocchio, perché ci fa vedere legamenti, menischi, membrana sinoviale, che è la membrana che riveste l'articolazione. Quindi del ginocchio si parte da una semplice radiografia, in base alla sintomatologia si decide se fare anche una risonanza magnetica oppure no. Claudio ci chiama da Modena. Buongiorno Claudio, benvenuto. Buongiorno. Che succede Claudio lì a Modena? Piove anche a Modena? Sì, sta piovendo, adesso sono su in montagna e piove parecchio, ci sono anche i fiumi ingrossati, speriamo che non succeda nulla. Va bene, incrociamo le dita Claudio, ma le sue ginocchia con l'umido come reagiscono? No, ma normalmente, infatti lo dicevo prima anche alle vostre collaboratrici, sì. Io faccio una vita direi abbastanza normale, aspetti che spengo la macchina che mi sono fermato perché ho il cellulare senza... No, per carità, a Modena. Mi sono fermato. A Modena, se no sono problemi. Allora, succede questo, io faccio una vita direi abbastanza normale, nel senso che sono agente di commercio, vado in moto, vado un po' in bicicletta, faccio un po' di tutto, cammino, corro un po', nuoto un po', tutto, un po' di tutto. Il quesito. E quindi senza problemi particolari né di schiena né di articolazioni. Sì. Mi succede, io abito al terzo piano senza ascensore. Sì. E 2 o 3 volte al mese, mentre vado su per le scale, proprio sembro un vecchietto che non riesco proprio a camminare, con un dolore enorme le ginocchia. Sì. Quando sale le scale, Claudio? Quando sono le scale. E quando le scende? Meno, no. No. Allora, grazie Claudio. No, un attimo solo. Sì. Nell'arco del mese, però, gli altri giorni vado su che sembro un grillo, cioè non mi capita mai, cioè capita 2 o 3 volte al mese. Allora, una risposta per Claudio, che di solito è un grillo, ma ogni tanto salendo le scale sembra un vecchietto. Ma esistono, diciamo che sembrerebbe un problema un po' simile a quello dell'ascoltatore di prima, cioè un problema della cartilagine della rotula, che viene sollecitata molto nella salita e nella discesa, perché noi tiriamo su il nostro corpo nel momento in cui saliamo, o comunque controlliamo la discesa per contrastare la forza di gravità quando scendiamo, e la cartilagine della rotula lavora molto, quindi sembrerebbe un problema di questo genere, però se è così saltuario anche a lei consiglio solo un po' di riabilitazione muscolare. Non so darle una risposta del perché avvenga in determinati giorni e in altri no. L'unica ipotesi può essere legata a un sovraccarico durante la giornata, un sovraccarico particolare che nel momento in cui noi andiamo a utilizzare in maniera più importante l'articolazione può far male. Anche Maria da Termoli ci scrive, a 57 anni ho problemi con le scale, mi muovo bene ma mi fa un po' male scendere le scale. È lo stesso problema che dicevamo prima. È una patologia molto molto frequente quella femororotulea, che ripeto, molto spesso con una buona riabilitazione muscolare si riesce ad evitare. Quindi il ginocchio, anche se fa male, va mosso, non bloccato. No, allora, se il ginocchio nel momento in cui fa male, certo, è una patologia particolare, bisogna analizzarlo, ma se abbiamo dei dolori in determinate situazioni e che possono essere riferite a un problema femoro-rotuleo, deve essere riabilitato come prima terapia. Luisa ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Luisa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Benissima la sua trasmissione. Senta, per cortesia, ho lo stesso problema dei miei precedenti compagni. Abbiamo già risposto. Sì. Però volevo, a me invece succede sempre, sì, tutte le volte che mi siedo e mi alzo, sì, e oltre a fare le scale, e questo solamente da un paio di mesi. Sì. Mi domandavo se solamente si può contrastare con una buona riabilitazione o c'è anche altro da fare. Ma scusi, 62 anni. Quanti anni ha? 62. Ecco, quando poi passa, il dolore, eh? Quando si è messa quando in moto? No, sì, sì, non lo sento camminando, lo sento tutte le volte ormai, che mi alzo e mi siedo da una sedia, da un divano e faccio... Ad esempio, quando si va al cinema, professor D'Anchise, ci sono persone che quando si alzano hanno proprio male, perché stare sedute a lungo, allora, alla fine, quando ci alziamo, paghiamo un po' il conto. Come mai? Questo è... siamo sempre sullo stesso tipo di patologia. Cioè, quando noi pieghiamo il ginocchio, se voi provate, la rotula non si riesce a muovere. Quando voi le stendete, invece, la rotula si può muovere e mobile. Quando noi pieghiamo il ginocchio, la rotula viene schiacciata contro il ginocchio e, rimanendo a lungo in questa posizione, crea una specie di aderenza, potremmo dirlo. Nel momento in cui noi ci muoviamo, stacchiamo questa aderenza, la cartilagine ha sofferto per un po' e la messa in moto diventa più impegnativa e fa male. Il problema del cinema mi fa venire in mente che esiste proprio un sintomo che si chiama segno del cinema, che è tipico di chi ha una patologia femorotulea e molte volte cerca qualche posto esterno, sì, per poter allungare le gambe, ed è... ci consente qualche volta di fare una diagnosi anche solo ascoltando la storia del paziente, perché è tipico di chi ha un problema femorotuleo. Per quanto riguarda la signora, che ha qualche anno in più rispetto agli ascoltatori che ci hanno chiamato, probabilmente potrebbe esserci un'iniziale artrosi. Artrosi vuol dire che questa cartilagine, che è stata a lungo sollecitata, comincia a soffrire. Quindi quando noi abbiamo un'usura della cartilagine, abbiamo l'artrosi. Quindi se per la signora è un problema abbastanza importante, un accertamento può inquadrare la situazione. E una possibile terapia? Che cosa potranno suggerire? In una prima fase riabilitativa con antinfiammatori, se si riesce a controllare con terapie fisiche o riabilitative, altrimenti si passa a terapie di tipo chirurgico, che hanno tutta una serie di possibili tecniche. Di cui parleremo nel corso della trasmissione. Siamo tornati insieme, il tema di oggi: ginocchio, 824 00 24. In attesa delle vostre chiamate andiamo a sentire le ultime novità che arrivano dal mondo della ricerca e della medicina. Sono commentate oggi per noi dal professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Il cibo spazzatura fa malare anche i topi. I ricercatori hanno provato a nutrire i topi con una dieta simile a quella dei fast food. Ebbene, ci sono delle alterazioni nel loro cervello molto simili a quelle che si vedono nel cervello degli uomini ammalati di Alzheimer. È una ricerca condotta in Svezia da ricercatori dell'Istituto Karolinska, che ha studiato dei topi modificati geneticamente in modo da acquisire un fattore di rischio per malattie degenerative del cervello. I topi sono stati nutriti con cibo ricco di zuccheri, grassi, colesterolo, come appunto quello del cibo spazzatura, come si dice. Questa dieta favoriva la formazione e l'accumulo nel cervello di certe proteine identiche a quelle che causano l'Alzheimer nell'uomo. Non ci sono ancora prove che il cibo spazzatura abbia qualche ruolo nell'Alzheimer. È comunque un altro invito ad un'alimentazione più sana. Le donne che fumano rischiano grosso e vivono meno. In questi giorni l'Associazione dei Ginecologi Americani ha lanciato un appello alle donne che fumano perché smettano di fumare al più presto. In America fuma il 20% delle donne adulte. Questo riduce la loro aspettativa di vita di 14 anni e mezzo. Avete capito bene, di 14 anni e mezzo. L'elenco degli organi e degli apparati danneggiati dal fumo è lunghissimo. Cancro al polmone, il tumore più micidiale per le donne, che è aumentato dal 1950 del 600%, ma anche il rischio per i tumori del seno, della faringe, della laringe, dell'esofago, dei reni, dell'utero è aumentato dal fumo. Malattie degenerative come l'arteriosclerosi, le bronchiti, l'osteoporosi, l'artrite sono favorite dal fumo. E c'è un problema di fertilità. Il fumo riduce la probabilità di rimanere incinta di una donna, e chi fuma durante la gravidanza rischia di partorire in anticipo un bambino che sarà sottopeso. E siamo tornati insieme. Professor D'Anchise, intanto voglio salutare l'altro nostro ospite che è arrivato a trovarci, il dottor Gianluca Melegatti. Buongiorno. Buongiorno. Responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. E vorrei approfittare della presenza del dottor Melegatti, parleremo anche di riabilitazione, quando è necessaria, come si fa prima dell'intervento, dopo l'intervento, è un capitolo molto importante. Tra l'altro vorrei anche porre, professor D'Anchise, questa domanda, che così andiamo a così passare in segna tutti i sintomi che ci vengono descritti dai nostri ascoltatori. Il gonfiore al ginocchio è sempre sinonimo di qualcosa che non va? Che cosa bisogna fare? Alcuni ascoltatori mi dicono: il ginocchio gonfio e devo togliere il liquido che si è formato con la siringa. È sempre giusto? Insomma, come affrontare questo gonfiore? Allora, precisiamo che il gonfiore è la manifestazione di una patologia, cioè non è quella la patologia. Primo elemento, quindi quando il ginocchio si gonfia vuol dire che c'è qualche cosa, ovviamente è difficile definirla genericamente, ma comunque qualche cosa che non va, può essere un menisco, può essere la cartilagine, può essere i reumatismi, quindi è un discorso... Un campanello d'allarme. Il togliere il liquido, personalmente io sono abbastanza contrario, a meno che non ci sia una tensione eccessiva che faccia sentire molto male, perché quando noi creiamo uno spazio che viene riempito dal liquido, questo spazio, quando noi abbiamo tolto il liquido, si deve essere di nuovo occupato da qualche cosa e molto spesso il liquido si riforma. Quindi è preferibile che il liquido venga riassorbito progressivamente con il riposo, con il ghiaccio, con una terapia antinfiammatoria, piuttosto che eliminarlo. Teniamo presenti che svuotarlo. Teniamo presente, e questo è dimostrato, che tutte le volte che noi mettiamo un ago in un'articolazione in genere esiste un piccolissimo rischio di infezione, quindi se possiamo evitarlo è meglio. Dottor Melegatti, vuole aggiungere qualcosa, un consiglio per i nostri ascoltatori che riferiscono appunto di avere un ginocchio gonfio? Ma intanto voglio salutare Roberto D'Anchise. Ciao Gianluca. Ciao Roberto, e dire che sono assolutamente d'accordo con lui quando dice che è meglio evitare di aspirare il liquido dal ginocchio. Ci sono dei, naturalmente, proprio per il rischio, anche se remoto, di infezione a cui faceva riferimento Roberto. Devo dire che in determinate situazioni molto particolari, dove il gonfiore si protrae per tanto tempo e dove il gonfiore è molto importante, allora lì è il caso forse di fare questo svuotamento, proprio perché noi sappiamo che il troppo gonfiore a livello del ginocchio provoca una sorta di inibizione a livello della muscolatura della coscia, che poi non riesce più a controllare bene i movimenti del ginocchio stesso. Quindi è una decisione da prendere, delicata, che deve prendere in genere un esperto. Mi permetto di aggiungere anche che con un liquido che si protrae, il perversamento che si protrae per molto tempo, esaminarlo, questo può darci delle informazioni, quindi lo anche prelevate, questo è un aspetto, per esaminarlo, lo svuotiamo, lo preleviamo, ci fanno una serie di esami che ci danno una serie di informazioni. Andiamo ad Angelo, ci chiama da Milano. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Come va? Bene, bene, grazie. Ci racconti. Senta, ecco, io avevo una domanda del professor D'Anchise, o comunque anche per... Non vogliamo più scricchiolii. Scusi? No, dicevo che non vogliamo più scricchiolii, no? Che prima ci raccontavano. No. Mi dica. No, io ho rotto, giocando a calcio, ormai 6 mesi fa, ho rotto il legamento crociato anteriore. Sì. Ho sentito vari ortopedici, radiografie, risonanza magnetica, eccetera. Ho fatto la riabilitazione e ho recuperato completamente il ginocchio. L'ortopedico che mi sta seguendo mi ha detto che con una buona, diciamo, riabilitazione o comunque maggior massa del muscolo si potrebbe provare anche a evitare l'operazione, anche perché non giocando a livello professionistico. Certo. Quanti anni ha, mi scusi? 38. Che sport fa? Calcio, basta. Allora, senta, purtroppo sono un po' in disaccordo con il collega che l'ha visto, nel senso che qui parliamo delle indicazioni all'intervento di ricostruzione del crociato anteriore. Premessa: il crociato anteriore, quando si rompe, nella stragrande maggioranza dei casi non si riattacca, quindi il ginocchio rimane con una insufficienza di questo legamento. L'insufficienza di questo legamento comporta una instabilità esclusivamente in determinate situazioni, cambi di direzione oppure salti. Quindi nella vita di tutti i giorni il paziente non ha problemi. Può capitare, quindi non è obbligatorio, che durante un salto o un cambio di direzione il ginocchio ceda. Quindi la muscolatura, è vero, dà un importante sussidio, ma quello che è il problema di fondo, quindi la mancanza del crociato anteriore, non viene eliminata e quindi esiste questo rischio. Ci sono delle indicazioni e indicazioni. Ovviamente un quindicenne, un diciassettenne che comincia la propria vita sportiva, a mio parere, ha un'indicazione quasi assoluta. Poi over 30, over 40 è un'esigenza soggettiva, tenendo presente che se il ginocchio lavora male o se ha dei cedimenti, questo è un ulteriore trauma che può provocare anche ulteriori danni alle articolazioni. Quindi, secondo me, se lei ha voglia di giocare a calcio, a mio parere si faccia operare. Tenga presente che comunque è un ginocchio non perfetto. In questo senso la riabilitazione sicuramente l'aiuta, ma non è sufficiente a stabilizzare il tutto. Ma a proposito di legamento crociato anteriore, abbiamo una storia da raccontarvi. Anzi, ce la racconta la diretta protagonista, che è Giovanna Trillini, grande campionessa di scherma. Ciao Giovanna, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Giovanna, nel corso della tua carriera hai dovuto anche tu affrontare un doloroso infortunio al ginocchio, rottura del legamento crociato. Sì. E anteriore, mi suggerisce il professor D'Anchisi. Però poi con un tutore tu hai gareggiato e ci hai regalato anche una medaglia d'oro. Come è andata? Poi ti sei fatto operare. Ecco, racconta un po' la tua esperienza ai nostri ascoltatori che hanno un problema di legamento e sono lì che dicono: ma devo intervenire, devo farmi operare, cosa posso fare? Naturalmente i campioni hanno una storia a parte, però io sono molto contenta che tu sia intervenuta e ci racconti della tua esperienza in diretta. Sì, in poche parole, nel febbraio del 92, quindi prima delle Olimpiadi che si sarebbero disputate in agosto, durante una competizione di Coppa del Mondo, ho avuto questo infortunio con la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro e parziale lesione anche del menisco. Mm. E subito dopo, diciamo, i riscontri erano quelli appunto di dover saltare le Olimpiadi, perché una cosa del genere, soprattutto per, come dicevi te, appunto atleti di alto livello non si possono permettere di poter gareggiare con un crociato rotto, anche perché il mio era molto instabile, come diceva prima il dottore, nei cambi di direzione, nei balzi, nei spostamenti l'articolazione mi cedeva sempre e avevo sempre del gonfiore nel ginocchio. E fortunatamente, aiutata da dottori validi, all'epoca il dottore della federazione era Giovanni Caldarone, con l'aiuto anche di un preparatore atletico che era Bruno Cacchi, e abbiamo deciso insieme a tutto lo staff di poter puntare, era un punto interrogativo naturalmente, di poter fare una riabilitazione particolare, una riabilitazione che mi portava il ginocchio sinistro a una potenza molto alta, e poter effettuare questa gara con l'aiuto di un tutore, che questo tutore limitava anche la distensione completa del ginocchio, aveva una limitazione di 15-20 gradi che impediva appunto una distensione completa e eventuali traumi successivi alla mia articolazione. È stato un periodo molto duro, perché naturalmente la riabilitazione è stata dura, anche lì ci sono stati momenti bui, perché ovvio un crociato rotto, problemi ce ne sono. Dovevo anche fare una buona lavoro a livello tattico, perché la mia scherma è cambiata completamente, però forse tutto questo ha portato a farmi affrontare un'Olimpiadi molto inconsciamente rispetto alle altre, a vincere questa medaglia d'oro che è stata inaspettata per me, soprattutto per tutte le altre. Senti Giovanna, poi ti sei operata? Sì, dopo io nel settembre, finite le Olimpiadi, ho fatto i vari consulti, anche lì ci sono stati i dottori che mi proponevano di non operarmi, ma mi rendevo conto che era impossibile, anche per avevo 22 anni, ero molto giovane, ero una ragazza, cioè sono una ragazza a cui piace molto lo sport, quindi non è che faccio solo scherma, ne faccio tanti altri, e ho deciso di fare questo intervento al crociato con il menisco. È stato un intervento fatto benissimo, è riuscito. È ovvio che adesso naturalmente le cose sono cambiate, nel senso che togliendo il menisco io ho avuto problemi poi successivamente con l'articolazione, con la cartilagine. Purtroppo, se magari succedeva adesso, le cose erano ben diverse. Infatti Giovanna, sì. Noi parleremo con i nostri esperti di come sono cambiate. Giovanna, intanto ti ringrazio per essere intervenuta, approfitto per farti gli auguri di buon Natale. Grazie anche a voi. E prenderemo, faremo tesoro della tua esperienza che offre tanti spunti ai nostri esperti, al professor D'Anchise come ortopedico e anche al dottor Melegatti come che utilizziamo per parlare di riabilitazione. Giovanna, ti saluto, grazie. Ok, ciao a tutti. Eccoci, siamo tornati insieme prima di parlare del tutore. Serve o non serve nel caso del legamento crociato anteriore? Perché già arrivano dei messaggi, allora posso anch'io, ma abbiamo detto che i campioni sono campioni. Andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop potete ricevere a casa il libro dal titolo Quale sport per mio figlio? Per partecipare a questa iniziativa basta mandare una mail all'indirizzo esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. Naturalmente il libro arriva a casa del primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta. In collaborazione con IBS.it. E siamo qua. Allora, tutore. Si rompe il legamento, la nostra Giovanna ha messo, insomma, Giovanna Trillini faceva le Olimpiadi di Barcellona, non è che capiti a tutti, si è messa il tutore. Allora, molti messaggi. Ho il legamento crociato anteriore, posso sciare col tutore? Non posso, posso farmi evitare l'operazione utilizzando il tutore? Ce ne saranno almeno una decina di messaggi che girano un po' su questo tema. Un parere del... Chi parla per primo? Un parere del dottor Melegatti e un parere poi del... Allora, dottore. Allora, le posso dire che il tutore non può sostituire un legamento crociato anteriore. Il tutore può dare una mano in determinati casi e soprattutto in determinati soggetti. Ne è un esempio la Trillini, l'abbiamo ascoltato. Il problema della Giovanna Trillini è stato gestito, a mio parere, in maniera ottimale, nel senso che la tendenza corrente è quella di programmare questo tipo di intervento chirurgico di ricostruzione e, nel caso di un atleta di alto livello, non fargli, se possibile, perdere la stagione o sì, l'evento importante. Quello che è stato gestito, è successo con la Trillini, è stato fatto un programma di recupero molto ben fatto, molto ben bilanciato, che l'ha portata alle Olimpiadi, ma poi dopo è stato necessario l'intervento. Per tornare al tutore, esistono tanti tipi di tutore. Il tutore è quello più valido, tra virgolette, è un tutore funzionale, è un tutore armato che garantisce in un certo senso il controllo della rotazione. Attenzione, cosa vuol dire armato? Scusi, Vuol dire io non un capisco. Tutore rigido, sì, in materiale o termoplastico oppure in carbonio, leggero, però un tutore diciamo che è abbastanza ingombrante e non è sempre ben tollerato, però questo è l'unico tutore che dal punto di vista oggettivo può garantire un certo controllo del, diciamo, del cedimento, sì, cioè della mancanza di controllo in rotazione. Esistono riscontri soggettivi da parte di pazienti che si trovano bene col tutore, però la letteratura purtroppo non ci dice in pieno che il tutore può funzionare e quindi il mio parere è quello di utilizzare il tutore in maniera oculata, ma solamente come, diciamo, momento di passaggio per arrivare poi alla soluzione. Come una sorta, tra virgolette, di stampella provvisoria. Esattamente. Sono un po' in disaccordo con il Bene, mio amico. Bene, fantastico. Nel così. Senso che noi dobbiamo distinguere l'atleta professionista, o comunque l'atleta ad alto livello, dall'uomo di tutti i giorni. L'atleta professionista ha un suo percorso. Ci sono giocatori come Baggio che hanno ripreso a giocare a pallone dopo 2 mesi e questo per noi è stato un tormento perché tutti volevano essere operati dicendo riprendo a giocare dopo 2 mesi come ha fatto Baggio dopo la ricostruzione del crociato anteriore. Quindi distinguiamo, siccome noi parliamo nella stragrande maggioranza con persone che fanno un'attività sportiva non agonistica, sì, per loro, secondo me il tutore è un grosso rischio, nel senso che innanzitutto non evita il cedimento, sì, e in seconda battuta dà un condizionamento psicologico, nel senso che uno diventa un po' schiavo di questo tutore. E da ultimo, l'utilizzo del tutore, che viene utilizzato sempre più frequentemente da chi, da chi lo indossa, può creare anche una perdita di tono muscolare, perché comunque il ginocchio lavora male. Quindi secondo me il tutore ha un grosso aiuto, da un grosso aiuto psicologico, perché noi abbiamo intorno qualche cosa al nostro ginocchio e facciamo molta più attenzione a come ci muoviamo. Quindi è un po' un rischio utilizzarlo, perché a meno che non si voglia non fare l'intervento chirurgico, sì, allora questo può anche essere un percorso con tutti i limiti che si può accettare, ma questo non vuol dire che lui può giocare a pallone o che può sciare. Non so se sei d'accordo, Gianluca. Ma sono assolutamente d'accordo. Volevo dirti che... Ti ho detto che eri in disaccordo per creare un po' di, no, ma di suspense. Sì. Il tutore non può, come dicevo, sostituire un legamento crociato anteriore rotto. Sì. Ci sono delle persone però che non vogliono affrontare l'intervento chirurgico. E allora? E allora in questi casi? Allora, dei buoni consigli, vale a dire consigli di evitare determinati attività sportive. Quali? Che vedono per esempio il calcio, il calcetto, per esempio il basket, ma consigliare altre attività sportive come per esempio la bicicletta, il nuoto, la corsa o anche lo sci, perché ricordiamo che lo sci molte persone riescono a controllare il proprio ginocchio, non naturalmente a livello agonistico, con una buona preparazione fisica, atletica e con un tutore. Sì. Però è chiaro che ci sono proprio delle indicazioni precise, come ho detto, il tipo di attività sportiva e il tipo di soggetto. Quindi nuoto e ciclismo e sci si allora, possono praticare? Io credo che sia molto semplice, tutte le attività che richiedono salti o cambi di direzione sono a rischio. Sci è uno sport a minor rischio, esatto, perché come tutti sappiamo chi scia, quando si scia con le ginocchia flesse, e certo, quando il nostro ginocchio è bloccato dalla muscolatura non succede mai nulla, assolutamente. È in una cassaforte. Mentre se invece si prende un sassolino, un pezzo di ghiaccio o comunque il ginocchio va via per un attimo, a quel punto non è più controllato dalla muscolatura e il ginocchio può cedere. Certo. Allora, anche dopo l'intervento, tra l'altro invece Gattuso lo operano subito? Voi siete milanisti, comunque siete allora, addetti ai lavori. Allora, io sono di fede napoletana per la mia origine, in bene, seconda battuta interista, però quindi che Gattuso non mi interessa proprio però, niente. Però lei è ortopedico e anche lui rientra, ecco, essendo qui, un campione. Ecco, ritorniamo nel discorso dei professionisti o dei grandi sportivi. Abitualmente la ricostruzione del crociato anteriore, per chi vuole essere operato, viene fatto a ginocchio, per così dire, freddo, quando è passato, quando sono passati i disturbi legati al trauma. In questo modo si ha un decorso post-operatorio migliore, con minori rischi di difficoltà di riabilitazione. È chiaro che questo non vale per lo sportivo, certo, che prima deve rientrare, prima rientra meglio e meglio è per lui. Quindi loro lo fanno in tempi rapidi. Attenzione, che anche come viene seguito lo sportivo non potrà mai essere seguito una persona, certo, come noi. Quindi dottor Melegatti, però ci segua quasi con le cautele che riserverebbe ad uno sportivo. Tra l'altro lei è responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby e penso che gli scontri lì siano all'ordine del giorno. Per chi ha effettuato già l'operazione per il legamento crociato anteriore, sottolineo anteriore perché so che il professor, certo, D'Anchise ci tiene, così sono precisa, c'è una riabilitazione, ma naturalmente, ecco, diciamo, deve essere fatta sempre sotto la guida di persone esperte o si può fare in qualche modo, nel senso anche a casa, utilizzando magari, non lo so, degli attrezzi particolari oppure semplicemente andando a camminare? Ci fa un programmino rapido? Ma certamente, intanto devo dirle che la parte preoperatoria, vale a dire la preparazione all'intervento chirurgico, è importante tanto quanto è importante la fase del post-operatorio, proprio, sì, per quello che ricordava il professor D'Anchise. La parte post-operatoria naturalmente è una parte fondamentale per il recupero funzionale completo, sì, e si differenzia in diverse fasi, per cui esiste una fase per la quale è indispensabile un controllo diretto da parte di personale specializzato e sì, esiste una fase un po' più tardiva per la quale il paziente può gestire per conto suo, sempre naturalmente sotto la supervisione costante di personale esperto. Allora, noi siamo in chiusura. 10 secondi, professore D'Anchise, per una battuta prima di salutarci. Mai riabilitazione aggressiva. Il ginocchio non deve soffrire nella riabilitazione. Quindi se durante gli esercizi abbiamo male, ci fa male, stop, qualcosa non va. Però è indispensabile la riabilitazione. È indispensabile, ma non deve fare male. Il legamento non guarisce da solo. Cioè la ricostruzione ha bisogno di una riabilitazione. Ringrazio il dottor Melegatti per i preziosi consigli. Grazie dottore per essere stato grazie con noi. A voi. Professor D'Anchise, grazie. Noi ci sentiamo presto. Buona giornata a tutti. Appuntamento domani. Io vi aspetto come sempre dopo il GR delle 11. Non mancate.